Ciao Maria Chiara. Buonasera Federico, buonasera a tutti. Allora, siamo qui per risolvere il quiz, ce lo risolve in linea Andrea Bernagozzi. Buonasera Bernagozzi. Buonasera a tutti. Buonasera. Autore di La fantascienza a test, che è il libro che si vince risolvendo il quiz. Allora, il quiz, dovevamo, li lascio a te leggere, dovevamo vedere quali dei seguenti quattro personaggi non c'entra con viaggi nello spazio. Sì, Federico, ricordiamo che è anche un quesito del libro di Andrea. Ah, certo, certo, di cui adesso parliamo. È un libro fatto a testi e test. I tipici test alfa test, insomma. Esatto. Allora, noi dovevamo decidere quali erano le professioni. Allora, ne abbiamo uno che non c'entra niente. Io adesso li ripeto e poi Andrea ci darà la risposta. L'astrogatore, il cosmonista, lo xenobiologo e il crononauta. Ecco, Andrea, ci aiuti. Quale fra questi mestieri non serve a bordo di un'astronave? Beh, è facile da capire. L'astronave viaggia nello spazio e crononauta, cronos, subito ci fa pensare al tempo. Quindi il crononauta è un viaggiatore nel tempo, non tanto nello spazio. Quindi ci vuole far credere che gli altri invece viaggiano veramente? Ah sì, assolutamente, basta leggere i libri di fantascienza e vedere i film di telefilm dove queste cose accadono veramente, per il momento, in attesa che accadano anche nella realtà. Grazie. E allora che cos'è l'astrogatore, il cosmonista e lo xenobiologo? Beh, l'astrogatore è il pilota, quello che appunto riesce a far volare nello spazio l'astronave dando la giusta rotta, la giusta direzione, è quello che insomma la fa andare avanti. Ma nel senso che c'è nei romanzi questa definizione? Certo, certo. Ah. Addirittura ci sono i manuali dell'astrogazione nei romanzi, perché sono cose dove lo scrittore vuole anche essere preciso per far bella figura. Poi magari, come al solito, c'è sempre qualche accorgimento per cui riesce a viaggiare più veloce della luce e altre cose che la scienza, per il momento almeno, ci dice che non sono possibili. Il cosmonista? Il cosmonista, quello poi è un mestiere, quello addirittura un mestiere pesante che è stato di attualità anche sulla Terra recentemente, perché è il camionista cosmico. Ah, ecco, da camionista. Eh sì, esattamente, è un analogo, è un romanzo uscito recentemente. Ci manca lo xenobiologo. Eh beh, non si può andare in giro nello spazio se non ti porti dietro qualcuno che conosce bene la biologia dei pianeti alieni sui quali ti puoi incontrare, perché una cosa è beccarsi l'influenza, una cosa è beccarsi un virus alieno, insomma meglio avere un biologo che si occupa delle cose altre, cioè xenobiologo. Ecco, allora, veniamo al suo libro, Bernagozzi. Allora, lei parla di fantascienza, la usa come test, però in realtà all'interno del libro sono contenute un sacco di nozioni. Allora, iniziamo subito con la domanda base. Quando nasce la fantascienza? Quando è che nasce questo genere che è letterario ma è anche culturale e racchiude in sé un sacco di amatori di questo genere? Anche perché mi collego appunto a questa domanda, lei qui c'ha un quiz, no, al quale bisogna rispondere, che ci dice di dover scegliere tra il tibetano Bardo Todol, il libro dei morti dell'antico Egitto, il Gilgamesh, ma insomma possiamo andare così indietro nel tempo? Questo è quello che pensano alcuni critici o alcuni storici della fantascienza particolarmente appassionati. La domanda contenuta in un capitolo del libro che non a caso si intitola La scorribanda di un miliardo d'anni, che è un'espressione che era stata utilizzata proprio per descrivere questa voglia degli studiosi di trovare delle origini molto nobili a questo genere appunto di letteratura, di film e di telefilm che tanto piace, per cui si tenta ogni tanto a esagerare. Oltre a quelli citati, per esempio, una delle cose più divertenti sono quelli che sostengono che la Divina Commedia di Dante è un romanzo di fantascienza, perché lui viaggia, va al centro della Terra, no, quando va all'inferno, e poi viaggia nello spazio quando va nel purgatorio. Quindi quando nasce la fantascienza, onestamente è una domanda veramente da un miliardo di anni e da un milione di dollari, diciamo così. Ecco, a questo proposito, Andrea, abbiamo una sorpresa, ti facciamo sentire una cosa e poi poniamo il quesito. Perché non li rendete più felici? Non si può, sono soltanto robot. Senza volontà propria, senza passione, senza storia, senza sentimenti. Senza amore, senza odio. Si capisce. I robot non amano nulla, neanche se stessi. Ecco, questo era un piccolo estratto da un'opera teatrale che abbiamo trovato su YouTube e si rifà alla famosa prima opera nella quale appare il termine robot. Maria Chiara, qual è che è esattamente? Sì, si chiama Rur, poi Andrea mi aiuti tu a dire bene la pronuncia in ceco, è di Karel Čapek, vero? Sì, diciamo così, va benissimo Čapek, Čapek. O Čapek, sì. Per noi va benissimo. La cosa curiosa di questa opera, dalla quale appunto nasce il termine robot, è che lì viene definito il robot come, direi, in tutta la fantascienza invece non viene assolutamente usato, perché viene definito come una macchinetta un po' stupida che non può fare niente, non ha sentimenti, non ha nessuna capacità di agire minimamente assimilabile a quella umana. Il problema del robot nella fantascienza è uno dei problemi fondamentali, diciamo filosofici, il confronto con qualcosa che ti assomiglia tanto ma che in realtà è diverso da te. Quando noi parliamo di robot pensiamo di solito a dei meccanismi e alla capacità di questi meccanismi di avere una forma umana e di essere senzienti. E curiosamente in quell'opera, in Rur, i robot che lì vengono utilizzati sono dei robot biologici, quindi qualcosa dove le rotelle, gli ingranaggi e l'olio per farli scorrere non c'entra niente, però poi il termine è stato applicato ai robot meccanici, quelli tipici appunto dei film di fantascienza soprattutto. Ecco, esistono tanti scrittori, scienziati o comunque scrittori uomini che scrivono di fantascienza, ma la versione femminile, ci sono delle scrittrici donne? E magari scienziate scrittrici in particolare. Allora, dal punto di vista del discorso proprio del confronto con qualcosa che ti assomiglia ma è diverso da te, qui forse arriviamo a quella che viene considerata la prima opera di vera fantascienza, cioè Frankenstein. Di Mary Shelley. Che è stato scritto proprio da una donna, Mary Shelley. Perché fantascienza? Perché sì, c'è la creazione di un mostro, però questo mostro non viene creato grazie a dei poteri magici, ma grazie a quelli che all'epoca erano gli ultimi ritrovati della scienza, le teorie galvaniche sul ruolo dell'elettricità per quanto riguarda gli esseri viventi. Quindi da questo punto di vista forse la fantascienza, per rispondere anche alla domanda precedente, nasce con un'opera di una donna, che forse, dato il ruolo della donna nella maternità, non a caso si pone il problema del confronto con qualcosa che metti al mondo, diciamo così, in questo caso questo essere mostruoso, Frankenstein. Poi da lì le donne hanno avuto un po' di problemi nella fantascienza, come l'hanno avuto in molti casi in tanti ambiti lavorativi. E abbiamo dovuto aspettare addirittura gli anni 70 del XX secolo perché ci fosse proprio un movimento in cui si imponesse una figura femminile di scrittrice e anche di scienziata, perché Ursula Le Guin, che è una delle più importanti scrittrici di fantascienza, è una studiosa di antropologia e non è un caso che nella sua descrizione delle società aliene ci fosse una così grande attenzione ai rituali, per esempio alle regole sociali e così via, che rendono affascinante proprio queste opere, perché si sente che dietro c'è anche uno studio serio dal punto di vista scientifico delle società umane. Della stessa collana di cui fa parte la fantascienza a test, cioè il suo libro, ne fa parte anche un altro che è i telefilm a test, però, ed è lanciato questo libro anche sulla controcopertina del suo, però lì per lanciarlo c'è un quesito che è ancora di fantascienza, che però ci ha incuriosito in modo particolare. Il quesito è il seguente: quale particolarità del tutto innovativa caratterizza il lancio della più importante serie fantascientifica della storia, cioè Star Trek? Le alternative sono: la puntata pilota non è mai stata messa in onda, le riprese della puntata pilota sono state sospese per rissa, esistono due episodi pilota e poi la NASA impedisce la messa in onda della puntata pilota. Quale di queste è vera? Quindi dopo aver bruciato una domanda... è troppo, non potevamo resistere. Brucio anche quella del telefilm. chiedo scusa agli autori. Va bene, è colpa nostra. Dobbiamo saperlo, qui non c'è la risposta. Esistono due episodi pilota, ne hanno girato uno che fra l'altro è stato considerato bellissimo perché venne proiettato proprio a una riunione di appassionati di fantascienza negli Stati Uniti che rimasero colpiti dall'ambizione di un telefilm che vuole essere popolare ma che conteneva un discorso filosofico molto elevato per quello che era un prodotto che doveva andare in TV, così elevato che la casa produttrice lo rifiutò e costrinse gli autori a girare un secondo episodio pilota perché capivano che quello era il primo girato era troppo complicato, però l'idea di Star Trek poteva avere successo e oltre 40 anni dopo siamo ancora a parlarne di Star Trek e quindi evidentemente quell'idea era giusta. Benagozzi, un'ultima domanda. Siamo abituati alla fantascienza americana, francese, inglese, insomma, ma c'è anche, che ne so, la fantascienza giapponese, indiana, egiziana, per esempio? esistono tutta una serie di fantascienze che si sono sviluppate in questi altri paesi. Per esempio, due casi particolari. Molto interessante è una fantascienza della di origine indiana, dell'epoca della colonizzazione britannica, che ha sviluppato tutta una serie di questioni sue particolari, bengalese, fantascienza bengalese, e attualmente, in questo momento, sta per arrivare la grande ondata della fantascienza cinese, perché quando una minima parte di scrittori di fantascienza, di scrittori cinesi si mettono a scrivere fantascienza, sono però un milione di lettori che si come muovono. Al solito, come i cinesi è sempre così. E poi a me vengono in mente anche i manga o i cartoon giapponesi sui robot, abbastanza classici. Questo è, va bene. Va bene, grazie Andrea, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a tutti. Arrivederci.